fiducia che ti porti sulle spalle quando cadi ancora. Non sei la somma dei tuoi errori in colonna, non silenzio dopo un quattro sul quaderno, sei il coraggio di rialzarti quando affonda. Quel che pensi di te stesso sotto il peso dell'inferno. Oh, e se mi sottovaluto mi taglio le ali, se mi sopravvaluto inciampo nei temporali, ma in questo spazio fragile tra pope, insegnano a chi guarda cosa amare e cosa odiare, tra un bacio e una carezza ti cambiano la demografia, ti educano al controllo mentre ti fanno sognare, qualcuno tira i fili sopra l'industria culturale, decide cos'è progresso, chi è moderno, chi è sbagliato, ti dice sei più libero se consumi un po' di meno, ma intanto il desiderio è incatenato e sorvegliato. Tra il moralismo triste e il cinismo da tastiera, tra incel furibondi e progressismi da vetrina, io cerco una via stretta che non venda la mia nel branco dei risentiti, nella pubblicità continua. Autoefficacia, fede nelle mie mani, non nelle serie scritte per guidare i miei perché. Non voglio un mondo docile di corpi troppo umani, addestrati alla paura di desiderare. Se l'anima è una stanza piena di simboli, di errori, di coraggio che tace, forse la cura vera non è soltanto biopsicosociale, ma anche un salto nel vuoto metafisico esistenziale, una scolastica nuova senza dogmi né padroni, dove impari ad essere libero anche dei tuoi no e delle tue passioni. questo pianeta. Forse il passo rivoluzionario smetterete di suonare. Non espite cognimi con suffo e di moneta. La scuola incannava, che l'incerro impegnava.